cuore e denari. I consigli della settimana. Ed eccoci tornati al consueto appuntamento della domenica mattina di Cuore e Denari in Famiglia in compagnia del nostro psicoterapeuta di fiducia, Alberto Pellai. Ciao Alberto e bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, con te tutte le settimane colleghiamo l'attualità a riflessioni educative per la famiglia, sfide educative in cui i genitori si trovano coinvolti. E questa settimana di grande attualità sono stati i papà. È stata la loro festa proprio il 19 marzo. Suonare al tuo cancello, una carezza al cane, vedere un cameriere, la mia bambina è pronta. È sempre ben vestita, le scarpe belle nuove, anch'io con la cravatta, la barba appena fatta. Il sole del mattino e dopo al Luna Park, ai giardini, allo zoo, a vedere gli animali. Cosa ci faccio io qui? Che senso ha? Alberto, l'hai riconosciuto il mestiere padre, del padre, sei. Del grande Giorgio Gaber, un poeta? Sì, questa è una bellissima canzone, in realtà molto anche in anticipo sui tempi approfondiva davvero il tema di quanto è importante la relazione tra padre e figli, e in questo momento è particolarmente attuale non soltanto perché questa era la settimana della festa del papà, ma perché proprio in molte delle discussioni relative all'emergenza educativa la nostra viene chiamata una società senza padri. Si è talmente e velocemente evoluto il quadro delle relazioni familiari che per esempio negli Stati Uniti più del 70% dei figli vivono in una casa dove non c'è la presenza del padre biologico. Questo ha generato anche molte fatiche nel percorso di crescita, tanto che per esempio il presidente Obama ha proprio messo in uno dei punti cruciali delle sue strategie familiari politiche per il potenziamento della paternità. E anche noi in questa parte di Cuore Denari vogliamo riflettere a voce alta insieme a te e naturalmente ai nostri ascoltatori su questa figura chiave della nostra società, che è proprio il padre. Sì, e tra l'altro è stato proprio una figura messa al centro dell'attenzione, prima di tutto degli psicologi, rimanendo un po' in tema anche con la vostra trasmissione, è proprio una figura che è stata a lungo e studiata per la prima volta negli ultimi 10-15 anni, mentre da sempre la psicologia si è interessata della figura materna. Ora i padri sono stati molto, molto studiati, hanno anche molto modificato il loro ruolo da un po' il modello del padre autoritario e padre padrone, sono diventati padri affettivi, presenti e disponibili nella vita dei figli, e le stesse neuroscienze tra l'altro sono riuscite negli ultimi 10 anni a dire a noi uomini che quanto più noi riusciamo a stare vicini a contatto con i nostri figli e i nostri bambini, tanto più il nostro cervello si trasforma e ci permette di funzionare un po' meno da maschi e un po' più da papà. E quindi inserisce dentro al nostro percorso di vita il codice, per esempio, della tenerezza e della connessione intima con i nostri bambini. Alberto, tu dicevi che in questi ultimi tempi la figura del padre è cambiata. Parleremo anche del padre assente e di quali danni produca questa assenza. Ma il ruolo del padre cambiato è un padre più vicino, più affettivo, che sa riconoscere anche la sua parte femminile, la sua, possiamo chiamarla così? Ma direi che in qualche modo riesce a non pensare che il compito dell'educazione è da deputare soltanto alle donne e che c'è una presenza molto forte in casa che lo richiede vicino ai propri figli, non per fare le stesse cose che fa la mamma, ma per fare altre cose o per fare cose simili in modo diverso, e i figli hanno proprio bisogno nel loro percorso di crescita di un codice materno e di un codice paterno che permetta loro poi un buon percorso di crescita. Come dicevi tu, la ricerca per esempio ha proprio dimostrato che l'assenza della figura e del ruolo paterno, e questo significa che un papà può essere anche in famiglia, ma se non c'è mai è vissuto dal figlio come un padre assente. Ecco, l'assenza del padre nella vita di un figlio ha impatti molto significativi sia per i suoi risultati scolastici, per esempio, sia anche per le sue competenze sociali. Quindi avere un padre vicino, attento e coinvolto aiuta davvero tanto i nostri figli. Perché, come dicevi tu, Alberto, si può essere assenti anche se siamo presenti. Quali sono, secondo te, i campanelli d'allarme di questa relazione che, no, si squilibra e paga l'assenza di una figura capace di riempire il suo ruolo? Ma spesso è avere in casa, per esempio, un figlio tiranno, che è un figlio in qualche modo che cerca di prendersi un potere che vede mancare nella propria famiglia. Se le mamme devono fare tutto da sole, sono molto stanche, spesso anche un po' indifese, non ce la fanno, e a quel punto il figlio prende il sopravvento. Essere un figlio tiranno però è proprio una modalità con cui il figlio richiede la presenza sulla scena del proprio papà. In adolescenza invece l'ingresso nei comportamenti a rischio in modo molto autolesivo, oppure le fughe, cioè lo stare fuori da casa per lunghissimo tempo, è un modo implicito con cui un figlio chiede al papà: vienimi a riprendere, riportami a casa con te. Alberto, abbiamo letto quindi la figura del padre dal punto di vista del cuore, inteso come emozioni, relazioni, ma la possiamo leggere anche in una prospettiva di denari, perché anche su questo aspetto ci sono stati molti incontri, dibattiti, riflessioni. Sì, i media hanno molto parlato di quelle che sono le sfide in questo momento, che dovrebbero essere un po' anche in cima all'agenda dei politici, che devono aiutare e tutelare le relazioni familiari. Per i papà c'è il grande tema del congedo di paternità e del sostegno alla paternità nel momento in cui nasce un figlio. Tuttora il congedo di paternità è molto poco usato e tanti uomini hanno paura a richiederlo, perché nel loro ambiente di lavoro verrebbero considerati un po' dei fannulloni, degli scansafatiche, mentre un papà presente nella vita del proprio neonato da subito in realtà fa molto bene sia al bambino che alla compagna di vita che a se stesso. Un altro tema molto molto forte è il tema dei papà separati. In questo momento è una popolazione in costante crescita, con molti problemi economici, soprattutto in questi tempi di crisi. E poi c'è il tema della paternità nei nuovi contesti, per esempio le coppie omosessuali che chiedono di diventare genitori, il tema della famiglia allargata, un tema di cui non si parla quasi mai, cioè quelli che potremmo chiamare i patrigni, cioè figure maschili che si affiancano a donne che avevano una precedente relazione di coppia da cui hanno avuto figli, e adesso questi uomini devono in qualche modo sostenerle nelle loro funzioni genitoriali. Anche Papa Francesco si è rivolto agli imprenditori che sono anche papà. Sì, è stato un incontro davvero interessante per come ce lo hanno raccontato loro gli imprenditori. Tra le altre cose, la festa del papà nasce e ha incontrato gli imprenditori di Federlegno nel giorno di San Giuseppe, il primo papà nella storia così della cristianità raccontato, è il papà di Gesù, che è un falegname, e lui ha un po' proprio descritto qual è per un imprenditore il rischio grosso quando sei papà, e di non avere tempo sufficiente per stare non solo con i tuoi figli, ma proprio anche per capire quali sono i loro bisogni. Molti uomini che lavorano dicono: io lavoro per i miei figli, ma i figli hanno bisogno di un tempo con loro che non è il tempo in cui noi spendiamo il lavoro. Giriamo il foglio allora, giriamo il foglio ancora, giriamo il foglio, dimmi cosa ci vendi. Alberto, e allora arrivato il tempo, lo sentiamo dalla canzone di Branduardi, dal titolo Un libro, di parlare di libri, dei tuoi consigli di lettura per chi ci sta ascoltando, uno per i genitori e uno per i ragazzini. Ma agli adulti consiglio la lettura del romanzo nuovo di Melania Mazzucco, Sei come sei, Einaudi Editore, dove una ragazza adolescente fa veramente un percorso molto interessante. Io l'ho trovato un libro davvero originale, molto bello, alla ricerca di un padre, e tra le altre cose la sua è una storia di genitorialità in una coppia proprio di nuovi contesti, perché è la figlia di una coppia omosessuale. Per i bambini invece, per i ragazzi quasi direi, preadolescenti, una storia divertentissima, L'esilerante mistero del papà scomparso di Neil Gaiman, a me è piaciuta, edita da Mondadori, perché c'è un papà che per procurare il latte al suo bambino si trasforma in un supereroe, come piacerebbe essere a tutti noi papà con i nostri figli. Grazie Alberto per essere stato con noi, l'appuntamento torna domenica prossima. Buona domenica. Buona domenica. E noi ci sentiamo come sempre domani insieme a Deborah Rosciani alle 11 puntualissime per una nuova puntata di Cuore e Denari. Buona domenica a tutti.